L'ultima firma con la CAI regge la tregua sindacale. Il terremoto dopo le scosse notturne, ora si fa la conta dei danni. Pescara, i dubbi del giudice sulle tangenti, il sindaco D'Alfonso verso la scarcerazione. Sardegna al voto, tra meno di 2 mesi il governatore Soro non revoca le dimissioni dopo lo sgambetto della sua maggioranza. Visita ai militari italiani in Libano per il presidente del Senato Schifani e in Afghanistan, se il governo lo chiede, il Parlamento è pronto a votare un aumento del contingente. Guinea, dopo la morte del presidente Conte, un militare annuncia nella notte sta nascendo un governo provvisorio. Gerex a Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Enrico Pagliarini. Dunque, dopo le cancellazioni, i disagi dei giorni scorsi, regge per ora la tregua natalizia per quanto riguarda i voli a Fiumicino. Sono limitati a 4 e tutti per cause tecniche i voli cancellati questa mattina. La situazione appare tornata alla normalità. Ma per sapere se questo è vero ci colleghiamo con lo scalo romano dove c'è Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Buongiorno Enrico, sì, dopo 2 giorni di vera passione, possiamo dire che oggi sono tornati regolari, normali i voli all'Italia in partenza qui da Fiumicino. Come dicevate da studio, ci sono solo alcuni ritardi, però che riguardano soprattutto voli in arrivo, e 4 voli in arrivo sono stati cancellati, ma per motivi legati al tempo, meteorologici o tecnici, quindi non legati alla protesta e alle assemblee spontanee dei lavoratori di terra all'Italia, che tra lunedì e ieri hanno portato alla cancellazione di oltre 140 voli, con grossi disagi naturalmente per i passeggeri umili. Pensate, i passeggeri che lunedì notte sono stati assistiti perché non erano riusciti a prendere posto sui loro voli, mentre tra ieri e stamattina comunque la situazione è tornata alla normalità. Sono partiti tutti, anche gli ultimi 40 passeggeri che erano diretti verso destinazioni internazionali e che non erano riusciti ieri a trovare posto su voli alternativi. Il motivo della protesta che ha creato tutti questi disagi sono i criteri di assunzione per i lavoratori della nuova Alitalia, che secondo i sindacati, le 4 sigle sindacali che hanno firmato gli accordi di Palazzo Chigi, la CAI non avrebbe rispettato. Ieri comunque c'è stato un incontro tra le parti, i sindacati sono stati ottimisti, sono usciti soddisfatti dall'incontro, hanno fatto sapere che da parte della CAI ci sono state delle aperture per quanto riguarda in particolare i lavoratori dei servizi aeroportuali, quindi si dovrebbe prospettare per tutti qui a Fiumicino un Natale tranquillo per quanto riguarda i voli all'Italia. A voi la linea. Grazie Andrea Viali, e proprio come dicevi tu Andrea, proseguono le trattative tra la CAI e i sindacati in queste ore per sciogliere gli ultimi nodi delle assunzioni e dei contratti, e questa mattina è intervenuto a viva voce il ministro per le infrastrutture Matteoli. Sentiamo che cosa ha detto al microfono di Alessandro Milan. In 3 mesi e mezzo, grazie a questa cordata di privati che ci hanno creduto e grazie anche a ciò che il governo ha fatto, oggi si parla dell'Alitalia in termini di ripartenza, con 12.600 persone assunte, con una cassa integrazione lunga, quindi mi pare che oggi se ne parla, perché se ne parlava già, se ne è parlato per 20 anni, ma se ne parla per la prima volta in positivo. Cioè, però se ne parla, cioè una fine, non si intravede ancora. L'opposizione diceva, ma come, sembrava tutto chiarito, era facile, ci sono passaggi europei, l'ENAC che doveva rilasciare delle autorizzazioni, ci sono situazioni che sono incrostate, che devono essere rimosse, c'è stato questo braccio di ferro dei piloti e non solo, cioè, non è stato facile, però bisogna dare atto a questa cordata che non ha mai mollato. Io a un certo punto ho pensato che mollasse, non lo ha fatto, dobbiamo ringraziarla. È stato pessimista a un certo punto? Detto. A un certo punto per forza, perché questo io francamente lo dico, non ho preso l'atteggiamento di alcune sigle sindacali che non hanno firmato, sarà per mia colpa, non lo dico polemicamente, per carità, però avendo partecipato a tutte le trattative dalla fine di agosto mi sono reso conto che c'era qualcosa di diverso da quello che stavamo trattando, perché non era possibile non accettare certe proposte che venivano fatte di fronte all'alternativa che era solo il fallimento, perché se qualcuno aveva pensato che il governo potesse intervenire per comprare o far sì che la compagnia diventasse una compagnia di Stato, questo francamente era fuori da ogni possibilità. Sì. Senta, ministro, 13, cioè, qual è la data? Ci dica, oggi il Sole scrive che il 13 partirà la CAI. A mezzanotte del 12 finisce l'Italia e subentra la nuova Alitalia. Questo dunque il ministro Matteoli questa mattina a Radio 24. Però Enrico, non ci sono solo i voli, gli aerei in queste ore ci si muove, no? E certo, ci sono anche persone che scelgono l'automobile oppure il treno. Secondo una stima di Trenitalia, ben 6 milioni tra la vigilia e l'Epifania sceglieranno appunto il treno per raggiungere parenti, amici o località di villeggiatura. Per chi sceglierà l'automobile, Autostrade per l'Italia segnala traffico da Bolino Rosso sulla A1, in modo particolare in uscita da Milano, tra Bologna e Firenze, da Roma verso Napoli. Stop dei TIR oggi e domani dalle 8 alle 22 per favorire gli spostamenti. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo alle 13:15, quindi tra una decina di minuti, il nostro appuntamento con la viabilità. Ed è un Natale come sempre particolare quello che vivono i nostri militari italiani impegnati nelle missioni all'estero. Oggi, come avete sentito anche dai titoli, visita del Presidente del Senato Schifani in Libano, proprio al nostro contingente. Ne parliamo tra poco nella seconda parte di Extra Large. Intanto sono ripresi i controlli dei vigili del fuoco e della protezione civile nelle zone del Reggiano e delle Parmense, epicentro delle scosse sismiche che ieri hanno provocato paura tra la gente, ma danni limitati e nessun ferito. Dopo il vertice di ieri a Parma con il presidente della regione Vasco Errani e il sottosegretario responsabile del Dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso, oggi ci sarà un nuovo incontro con i sindaci delle zone coinvolte per fare una stima dei danni. Ma sentiamo Claudio Chiarabba, dirigente dell'Istituto Nazionale di Geofisica. Abbiamo registrato sin dall'inizio della sequenza una serie di terremoti di magnitudo decrescente, per cui abbiamo registrato in tutto una sessantina di terremoti sotto magnitudo 3 che per fortuna, fra l'altro, siccome avvengono a profondità abbastanza elevate, non sono nemmeno particolarmente sentite dalla popolazione. Gli unici eventi di riguardo che abbiamo avuto è stato un terremoto attorno alle 11 di ieri sera, di magnitudo 4,7, che è stata la seconda scossa importante, ma che comunque possiamo ancora considerare un aftershock del terremoto del pomeriggio, e un terremoto di magnitudo 3,9 avvenuto attorno all'una di notte. Nei giorni scorsi ci hanno accompagnato praticamente ogni giorno, riempendo le pagine dei giornali e dei radiogiornali, le notizie di cronaca giudiziaria che venivano da diverse regioni italiane. Oggi il giudice per le indagini preliminari di Pescara sta valutando se firmare l'ordine di scarcerazione per il sindaco e segretario del PD abruzzese Luciano D'Alfonso. La motivazione, secondo quanto anticipato da alcuni giornali, è che non ci sarebbe stata corruzione. Definita la Tangentopoli rossa, con i vertici comunali sotto accusa ed intercettazioni in prima pagina, da ieri sembra scricchiolare il castello accusatorio che ha portato in carcere il sindaco di Pescara. È tornato già in libertà Guido Dezio, ex tesoriere del comune, accusato di essere stato il collettore per conto del sindaco Luciano D'Alfonso di 150.000 euro di contributi in nero. E oggi il giudice per le indagini preliminari, a quanto filtra dalla procura, potrebbe rimettere in libertà proprio D'Alfonso agli arresti domiciliari del 15 dicembre. A Pescara, dunque, secondo il GIP Luca De Ninis, non vi sarebbe quella cupola, né traccia di tangenti come indicato nelle 100 pagine dell'accusa. Dalle anticipazioni pubblicate da alcuni giornali abruzzesi si legge inoltre che quelle prodotte secondo il GIP non sono prove ma semplici deduzioni investigative. Questi elementi, prosegue De Ninis, si inducono a ritenere fondate le perplessità sulla tenuta dell'impianto accusatorio in relazione alla qualificazione giuridica delle corruzioni. Per il GIP, insomma, vi sarebbero solo irregolarità che potrebbero subire una riqualificazione come meri finanziamenti illeciti al partito. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore. E da Pescara alle inchieste napoletane, con la vignetta di Giannelli oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, c'è un Di Pietro che si inchina al bordo di un fiume e mette giù una culla con un piccolo Di Pietro. E il titolo è L'innocente, la giustizia faccia il suo corso. E Di Pietro ha detto: un comportamento senza alcuna rilevanza penale, ma non opportuno e non corretto. Così il leader dell'Italia dei Valori ha commentato il contenuto delle intercettazioni tra il figlio Cristiano e il funzionario del Ministero delle Infrastrutture Mario Mautone nell'inchiesta napoletana sugli appalti. Facciamo ora il punto in questo servizio. Terminati gli interrogatori, si riprenderà lunedì prossimo, quando il Tribunale del Riesame valuterà le istanze dei difensori degli indagati. Ieri sera è stato ascoltato dai magistrati come persona informata sui fatti anche il sindaco Iervolino. La testimonianza del primo cittadino ha chiuso una giornata sul fronte giudiziario caratterizzata dal secondo interrogatorio di garanzia di Alfredo Romeo. 4 ore durante le quali l'imprenditore ha risposto alle domande di PM e GIP, come aveva fatto nei giorni scorsi. Ha respinto ogni addebito, negando l'esistenza di un sistema creato ad hoc per pilotare le gare d'appalto. Romeo ha chiarito che i suoi rapporti con i politici locali sono sempre stati esclusivamente di tipo istituzionale. Quanto agli appalti nazionali e internazionali, i legali dell'indagato hanno sostenuto che è stata dimostrata la perfetta liceità degli stessi. Gli avvocati Caro Tenuto e Fonarx sono apparsi molto soddisfatti, convinti che l'interrogatorio abbia segnato un punto a favore del loro assistito. A questo punto tocca al riesame. Del collegio farà parte anche l'ex PM di Catanzaro, Luigi De Magistris. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E c'è un'altra vicenda politica in primo piano in questi giorni, che però non ha nulla a che vedere con inchieste giudiziarie. Riguarda la Sardegna, che andrà presto alle urne il 15-16 febbraio per il rinnovo del Consiglio, dopo che ieri il presidente della regione Soru ha confermato le sue dimissioni. Si chiude così una querelle iniziata quasi un mese fa. Ho presentato le dimissioni quasi un mese fa per i motivi che avevo ricordato, perché ritenevo che stessimo contraddicendo quanto di importante avevamo fatto sul governo del territorio. E nel momento in cui non possiamo fare al meglio o proseguire al meglio, ridiamo la parola ai sardi. Con queste parole, ieri il governatore Renato Soru ha confermato le dimissioni. Ora la Sardegna va verso il voto, il primo anticipato nei 60 anni di storia dell'autonomia isolana. I sardi andranno alle urne a febbraio, solo qualche mese prima della scadenza naturale della legislatura. A nulla è valso l'appello bipartisan alla maggioranza, ma anche all'opposizione, lanciato da Soru in apertura del Consiglio regionale. Tra le condizioni dettate dal presidente, il via è libera a integrare alla legge urbanistica quasi il simbolo del suo mandato. Un mese fa la crisi si è aperta proprio per un emendamento bocciato dalla maggioranza di centrosinistra sui vincoli di costruzione nelle zone interne della Sardegna. Subito dopo Natale il Consiglio regionale sarà sciolto e inizierà la campagna elettorale, con Soru già candidato. Il centrodestra invece deve ancora scegliere. Se arriverà il no di Beppe Pisanu, toccherà Mario Floris, sindaco di Cagliari. Monia Meris, GR24, Il Sole 24 Ore. E noi continuiamo a parlare di Renato Soru, perché prima di essere un amministratore e un politico è stato un imprenditore, per alcuni un imprenditore illuminato che ha lasciato il segno nel campo delle telecomunicazioni in Italia, ma non solo in questo settore. Luca De Biase, un collega del Sole 24 Ore, ha studiato con Soru e ha fatto per noi un ritratto. Renato Soru è una persona molto speciale, ho conosciuto alla Bocconi, ma dopo di quello lui ha colto occasioni a raffica per sviluppare la sua imprenditorialità e la sua voglia di costruire la Sardegna. È partito dal negozio di sua madre nel momento della liberalizzazione del commercio, l'ha trasformato in una catena di negozi, è partito dalla liberalizzazione finanziaria e ha lavorato nei derivatives e nei prodotti finanziari avanzati, poi ha visto la caduta del muro di Berlino ed è partito per la Cecoslovacchia con l'idea di costruire anche lì una catena di negozi. In realtà è diventato Video Online Cecoslovacchia, ricomprandolo da Grauso. Dopodiché ha venduto quello al momento della liberalizzazione delle telecomunicazioni in Italia ed è venuto a costruire Tiscali. Tiscali è diventata quello che è diventata e lui è passato alla politica per ricostruire un pensiero in Sardegna. Ho l'impressione che sia un politico, ma un politico particolare. Oh, e non dimentichiamoci oggi che è la vigilia di Natale, insomma, magari gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, che si stanno spostando verso i luoghi di vacanza, già lo sanno. Noi che siamo ancora a lavorare, forse ci facciamo una riflessione e andiamo a Piazza San Pietro, Enrico, perché provengono in gran parte da un presepio del 1842 della chiesa romana di Sant'Andrea della Valle. Le statue del presepio allestito in Piazza San Pietro, che verrà inaugurato oggi all'imbrunire con una veglia di preghiera per la pace nel mondo. Alla fine della preghiera il Papa si affaccerà dalla finestra del suo studio e accenderà il lume della pace posto sul suo davanzale. E c'è chi a Napoli ha pensato ai rifiuti, visto che di rifiuti si è parlato molto a Napoli, per un presepe molto particolare. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. Non un presepe come tutti gli altri, ma il simbolo della rinascita di una città uscita da un'emergenza nella quale non vuole più tornare. È quello realizzato a Napoli e che unisce elementi tipici della tradizione settecentesca all'immondizia che per tanti mesi ha strangolato la città partenopea, come spiega Antonio Cantone, l'artigiano autore dell'opera. A destra del presepe c'è questa scena fatta con materiali da riciclo, come ad esempio può essere un mare fatto di bottiglie di plastica. Una scultura realizzata da noi che rappresenta un mezzo busto di una donna con tratti greci che vuole simboleggiare la bellezza, la cultura di Napoli, però trafitta da bottiglie di plastica. Queste bottiglie di plastica trafiggono Napoli, la cultura, la bellezza come le frecce trafiggono un San Sebastiano. Un'armonia degli opposti con la quale Cantone vuole mandare un messaggio a tutti i napoletani. Noi cittadini ci dobbiamo appropriare legalmente della nostra città. Quello che è fuori, al di fuori della nostra porta di casa ci appartiene ugualmente. Quindi lo dobbiamo difendere, lo dobbiamo rispettare e dobbiamo avere più senso civico rispetto a chi non mantiene queste cose, cioè a chi imbratta, a chi sporca, eccetera. Il presepe rimarrà esposto nella Basilica di San Domenico Maggiore fino all'8 gennaio. Paolo Scandale, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 18 minuti, GR Extra Large, le notizie di oggi. Buone notizie per chi ha un mutuo a tasso variabile. Scende ancora il tasso interbancario Euribor sulla scadenza tre mesi, scivolato sotto la soglia del 3% per la prima volta dal 23 giugno 2006. Il tasso è sceso di 3 punti base al 2,99%. Il GIP del Tribunale di Pescara, Luca De Ninis, è al lavoro da questa mattina per decidere sulla scarcerazione dell'ex sindaco Luciano D'Alfonso agli arresti domiciliari dal 15 dicembre nell'ambito dell'inchiesta su presunte tangenti negli appalti pubblici al Comune di Pescara. La notizia della scarcerazione è stata anticipata oggi dai quotidiani La Repubblica e Il Riformista. Per la prima volta nella sua storia la Sardegna andrà alle elezioni anticipate. Ieri sera il governatore Renato Soro ha confermato le dimissioni motivate tra l'altro dal mancato via libera al piano paesaggistico. Ho presentato le dimissioni quasi un mese fa per i motivi che avevo ricordato, perché ritenevo che stessimo contraddicendo quanto di importante avevamo fatto sul governo del territorio. E nel momento in cui non possiamo fare al meglio o proseguire al meglio, ridiamo la parola ai sardi. Parola ai sardi che potrebbe tornare il 15 e 16 febbraio. E sono in corso in Emilia-Romagna nuove verifiche sugli edifici, in particolare sulle chiese danneggiate nell'area tra Parma e Reggio Emilia, colpita ieri da una forte scossa di terremoto. Fino ad ora non sono stati segnalati feriti o crolli di edifici, ma la regione potrebbe formalizzare la richiesta dello stato di emergenza. Voli quasi regolari oggi all'aeroporto di Fiumicino, con l'eccezione di tre in arrivo da Firenze, Venezia e Tel Aviv. Situazione verso la normalità anche per le valigie. Intanto, mentre continua il confronto con la CAI, i sindacati riferiscono di segnali positivi sulla verifica del rispetto dei criteri di assunzione. Il presidente del Senato, Renato Schifani, è in Libano per portare gli auguri ai militari italiani inquadrati nel contingente UNIFIL. Il comando generale delle forze internazionali impegnate in Libano è dallo scorso anno affidato al nostro paese e al generale Claudio Graziano. E in Afghanistan, se il governo lo chiede, il Parlamento è pronto a votare un aumento del contingente, ha detto Schifani. È una scelta squisitamente politica che dovrà adottare il governo consultandosi con le sedi internazionali, la sottoporrà al Parlamento. Non vi è dubbio che se il governo farà questa proposta e il Parlamento sarà chiamato a pronunziarsi dinanzi ad una esigenza conclamata di sempre più forte contrasto al terrorismo, ritengo che il Parlamento farà la propria parte. Sentiremo tra poco l'intervista integrale a Renato Schifani e rimaniamo nell'area medio orientale. Dopo i 15 di ieri sera, due potenti razzi sono stati lanciati oggi dalla striscia di Gaza verso il sud di Israele, ferendo due persone. Gli attacchi arrivano alla fine di una tregua di 24 ore decretata dal movimento Hamas che controlla Gaza. E allarme e proteste in Russia a causa della recessione che sta colpendo il paese, abituato ad un'economia che cresceva del 7% all'anno e ora deve fare i conti con un numero crescente di disoccupati. Il presidente Vladimir Putin ha ammesso il problema e, rivolgendosi al mondo del business, ha consigliato di licenziare soltanto come estrema ratio. Nel corso della notte, con un comunicato alla Radio Nazionale della Guinea, il capitano Moussa Camara ha annunciato la formazione di un governo ad interim composto da 30 membri, di cui 29 militari e un civile. Ieri, dopo la morte del dittatore Lansana Conté, al potere dal 1984, un gruppo di militari aveva annunciato lo scioglimento del governo, di fatto un colpo di Stato. Dunque, il presidente del Senato Schifani si trova in Libano per portare gli auguri dell'Italia e del Senato in particolare ai militari del nostro paese che sono inquadrati nel contingente UNIFIL. Schifani è giunto poco fa a Shama, una delle basi principali di Ital Force. Allora ci colleghiamo con la nostra inviata Elisabetta Fiorito. L'inno d'Italia cantato a squarciagola, un caloroso saluto dell'esercito al presidente Renato Schifani. Il presidente del Senato è giunto a Shama, qui nel sud del Libano, dove i nostri soldati stanno svolgendo la missione di pace UNIFIL. 2500 soldati, il contingente più numeroso tra le truppe straniere, l'orgoglio, dice Schifani, del nostro esercito. Il presidente del Senato interviene anche sul possibile aumento del contingente delle truppe in Afghanistan e dice è compito del governo. Inoltre, e nel pranzo di Natale, i calorosi auguri di tutto l'esercito, il menù natalizio e poi spumante per brindare con il presidente del Senato. Ma sentiamo cosa ci ha detto Schifani proprio qui a Shama, nella base del sud del Libano. Beh, un'accoglienza calorosa e un messaggio caloroso che io ho portato a questi nostri grandi e generosi militari. Siamo orgogliosi della loro missione, del loro sacrificio. Abbiamo voluto farlo proprio in un momento particolare in cui la distanza dalle famiglie si avverte sempre di più, la vigilia di Natale. Ecco, la vigilia di Natale siamo stati con loro e siamo orgogliosi e felici non soltanto della loro accoglienza, ma di aver portato un messaggio di affetto da parte di tutti gli italiani. Lei non è nuovo a queste missioni natalizie e pasquali, non è la prima? No, non è la prima e non sarà l'ultima. C'è stato un richiamo, insomma, la possibilità che ci sia un aumento del contingente italiano in Afghanistan, qual è la sua opinione? È una scelta squisitamente politica che dovrà adottare il governo consultandosi con le sedi internazionali e la sottoporrà al Parlamento. Non vi è dubbio che se il governo farà questa proposta e il Parlamento sarà chiamato a pronunziarsi dinanzi ad una esigenza conclamata di sempre più forte contrasto al terrorismo, ritengo che il Parlamento farà la propria parte. Intervista di Elisabetta Fiorito che, oltre ad aver parlato con il presidente Schifani, ha parlato anche con alcuni soldati italiani. Primo caporal maggiore, Giardino Immacolata. Da quant'è che qui in Libano? Circa 3 mesi. Io mi occupo della cellula S1, quindi un po' del personale, organizzazione cerimonie. Primo Natale fuori casa? Sì, è il primo. E qual è l'atmosfera? Beh, devo dire la verità, oggi è un bel giorno, sono contenta comunque di stare qui alla fine. Nuova esperienza, bello. Lei si chiama? Sono il sergente Maurizio Pipitò. Io vengo da Palermo, il mio reggimento è il Lancieri di Novara V, a Codroipo. E qual è il rapporto con la popolazione locale? Ma il rapporto è abbastanza buono, insomma, magari rispetto all'inizio i bambini anche, insomma, si vede che sono anche più propensi a salutarci, a mandarci comunque i loro saluti, vengono anche incontro quando ci vedono in giro. È un rapporto sereno, insomma, con la popolazione. Quante missioni ha fatto all'estero? Sono alla mia nona esperienza all'estero. Primo Natale? No, è forse neanche l'ultimo. Questa dunque è la situazione che riguarda i nostri militari del contingente italiano in Libano, ma l'Italia è presente in altre zone di conflitto, dall'Afghanistan ai Balcani. Quali sono le missioni ancora in piedi? Sentiamo. C'è chi è impegnato in una missione difficile e finisce suo malgrado sulle pagine dei giornali. C'è chi si trova dentro uno scenario altrettanto delicato all'insaputa dei più. E c'è chi ricopre incarichi meno pericolosi, ma è comunque lontano da casa. In totale sono 8.832 i militari italiani oggi impegnati nel mondo. Sparsi su 3 continenti, i nostri soldati occupano 21 paesi, dove svolgono 33 missioni diverse, tutte condivise con altre forze internazionali. Il grosso delle truppe è rappresentato dai contingenti in Libano, Afghanistan e Balcani. Qui in tutto sono impegnati 7.473 uomini, che lavorano in 3 aree molto diverse tra loro, ma ognuna attraversata da grandi tensioni. C'è poi un'altra missione nota, quella in Iraq. Gli italiani rimasti sul territorio dopo la caduta di Saddam fanno oggi attività di consulenza, formazione e addestramento. Ma i militari sono anche in altre zone calde del pianeta, seppur in pochi. Sul versante mediorientale, oltre che in Libano, la bandiera tricolore svenne pentola in Israele e nella striscia di Gaza con soli 12 uomini. Decisamente più corposo il contingente in Egitto, mentre in Africa sono interessati anche Marocco, Sudan, Chad e Repubblica del Congo. Non finisce qui, perché le forze italiane sono sparse a macchia d'olio sul globo. Sono a Cipro, in Albania e a Malta, ma anche in Georgia, India e Pakistan. Marco Lignana, GR24, Il Sole 24 Ore. Intanto una quindicina di razzi e un colpo di mortaio dalla striscia di Gaza sono esplosi da ieri sera nel sud di Israele senza fare vittime. Gli attacchi sono arrivati alla fine di una tregua di 24 ore decretata dal movimento Hamas che controlla Gaza e da altri gruppi armati palestinesi. E la nostra finestra sul mondo arabo oggi è dedicata proprio alla striscia di Gaza. Croce fissione, frustate e taglio della mano sono solo alcune delle pene previste da una nuova legge islamica approvata dal Parlamento di Hamas a Gaza. Lo rivela il quotidiano Al-Hayat, che afferma di avere ottenuto una copia del disegno legge presentato dal governo Ismail Haniya ed approvato a larghissima maggioranza dai deputati del movimento estremista islamico. La legge, che introduce anche la condanna a morte per le spie del nemico, non spiega se la pena sarà eseguita tramite la crocefissione. Per il resto, i deputati islamici sono molto precisi. Non meno di 40 frustate a chi produce, detiene o beve alcol, mentre per colui che commette un furto sarà tagliata la mano all'altezza del polso. Solo 3 deputati hanno votato contro. Adin Fatah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Mi sento su, in mezzo alla gente. Osservo tutto, ma non tocco niente. Mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente. Si chiama semplicemente Suono, ma per il suo nuovo progetto Eugenio Finardi, oltre alla musica, ha messo in scena se stesso. Per la prima volta, infatti, il cantautore si è confrontato con il teatro canzone. La sua performance, che tornerà presto nei teatri italiani, per ora è diventata un DVD. Ma perché cimentarsi con il teatro? Finardi ne ha parlato con la nostra Marta Cagnola. Perché a un certo punto le canzoni hanno cominciato a starmi strette, avevo voglia di elaborare un po' di più i contenuti e di fare discorsi più ampi anche per da una parte far ridere, dall'altra parte far pensare. Anche per far conoscere meglio la mia storia, la mia vita, esperienze che ho passato, pensieri che ho elaborato, e trovavo che a un certo punto solo far stare tutti in una canzone avrebbe fatto delle pessime canzoni, mentre invece trovare uno spazio teatrale e avere il coraggio di occuparlo anche fisicamente, non solo con la musica, è stato molto divertente. La sensazione è quella che lei voglia allargare sempre di più gli orizzonti. Lei ha detto proprio la parola giusta, è orizzonte, no? Cioè, quando si comincia ad avere più di 55 anni, diciamo, io ne ho 56, e si ha avuto un grande successo a 24 anni, come a me è successo con la musica Ribelle. Ma è un po' un destino comune a tanti miei colleghi, si rischia di diventare un po' a questa età, di essere condannati a recitare ciò che si era a 20 anni per il resto della vita, e diventa un po' triste, proprio un orizzonte molto limitato. Ecco, io, per citare Vladimir Vysotsky, questo poeta russo che ho interpretato prima di quest'ultimo progetto, ho deciso di prendere in mano l'orizzonte e di rispingerlo in là, di spingerlo, di riallargarlo e di fare blues e di cantare musica classica contemporanea su canzoni di un poeta russo, di fare teatro, di buttarmi in generale a fare tutte le cose che forse quando ero più giovane avevo paura di fare. 13.33, GR Extra Large.

Complessivamente i contratti scaduti risultavano 27 e interessavano 3 milioni e mezzo di lavoratori, di cui 2,8 milioni appartenenti alla pubblica amministrazione. La firma ieri del contratto del parastato ha alleggerito questa situazione, ma restano alcuni grossi nodi da sciogliere nel settore pubblico, come sanità, ricerca ed enti pubblici, e una serie di piccoli contratti scaduti nel settore privato, di cui alcuni da molto tempo, come quello dei lavoratori delle pulizie nell'artigianato. A dicembre poi si apre una nuova stagione con uno scoglio difficile come il contratto delle telecomunicazioni. Divisi su diversi fronti, CGIL e CISL concordano sulla criticità di questo passaggio. Susanna Camusso, segretario confederale CGIL. Sicuramente tutto il settore privato in questo momento è molto appesantito dall'esistenza della crisi e della preoccupazione sulle prospettive. Anche per Giorgio Santini la crisi rischia di incidere negativamente. La vera preoccupazione non è legata alla contrattazione in quanto tale, ma come abbastanza insomma evidente dal rapporto tra la contrattazione e la pesantezza di questa situazione di crisi economica che sta avendo riflessi pesanti sul lavoro. È chiaro che rinnovare il contratto delle telecomunicazioni, avendo nel settore il caso Telecom che da solo ha riproposto altre migliaia di esuberi, non è una situazione facile. Per Santini l'obiettivo è salvaguardare i posti di lavoro senza penalizzare i rinnovi. E poi, ricorda, i prossimi rinnovi del privato saranno quelli in cui applicare il nuovo modello contrattuale. Un'opportunità, ma anche una difficoltà in più. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E intanto una buona notizia riguarda anche i seppur pochi lavoratori pugliesi della Divella, l'azienda che produce la nota pasta. Grazie infatti al buon andamento del fatturato, i fratelli Divella hanno annunciato che i loro 280 dipendenti avranno una mensilità in più. Non è proprio un altro stipendio, ma quasi. In controtendenza con la situazione generale, al pastificio di Vella di Rutigliano, nel Barese, i dipendenti riceveranno in busta paga, oltre alla tredicesima, anche lo stipendio di dicembre ed un premio di produzione di importo quasi uguale. La pasta si vende, per la prima volta dopo 15 anni i consumi sono cresciuti del 35% in tutta Italia e a Rutigliano è stato così centrato l'obiettivo stabilito 3 anni fa dall'azienda con i suoi dipendenti. Raggiunto il tetto del 1,5 milioni di quintali di pasta, premio di produzione per tutti i 280 operai del gruppo. Anche per il futuro, proprio perché i consumi di pasta sono cresciuti dopo anni di fermo e le prospettive sono buone, l'azienda ha concluso un altro accordo simile. Premio di produzione se entro il 2011 si raggiungerà il tetto dei 2 milioni di quintali di pasta. L'azienda va bene, spiega Vincenzo Di Vella, che insieme al cugino Francesco guida il pastificio. Le prospettive sono ottime e la capacità produttiva è cresciuta grazie agli investimenti tecnologici fino a 6.000 quintali di confezione di pasta al giorno. Vincenzo Rutigliano, GR24, Il Sole 24 Ore, Bari. Adesso andiamo all'estero. Per la prima volta in 10 anni la Russia registrerà nel 2009 un deficit di bilancio. La crisi sta colpendo dunque anche Mosca, abituata ad un'economia che cresceva al ritmo del 7% l'anno. Gli ultimi numeri parlano di un incremento significativo dei disoccupati, cresciuti solo a novembre di almeno 400.000, dai 4.620.000 di ottobre. E il malcontento si sta trasformando in un numero crescente di proteste popolari provocate dal mancato pagamento dei salari, da minacce di licenziamento e misure impopolari connesse alla crisi. Non è un caso che il premier Vladimir Putin ha ammesso il problema e, rivolgendosi al mondo degli affari, ha consigliato di licenziare soltanto come estrema ratio. E chissà se gli daranno retta, naturalmente, al premier, noi lo auspichiamo. Adesso ci spostiamo in Africa perché ci sono notizie non molto positive. No, purtroppo, perché come sapete, dopo la morte del presidente Lansan Conté, che era al potere in Guinea da 24 anni, il paese si ritrova in una situazione quantomeno complicata. È infatti in corso la formazione di un governo provvisorio fatto soprattutto da militari. L'annuncio è arrivato nella notte. Alla radio, i militari che hanno organizzato ieri il colpo di Stato in Guinea hanno appena annunciato l'intenzione di organizzare elezioni libere, credibili e trasparenti. Questo però nel dicembre del 2010. Nell'ambasciata di Francia che raggiungiamo ci dicono che per ora non si segnalano situazioni di violenza né di guerriglia. Ad Addis Abeba intanto i 32 membri che partecipano alla riunione straordinaria del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione Africana dedicata alla situazione in Guinea condannano con fermezza il golpe avvenuto subito dopo l'annuncio della morte del presidente Conté. Conte, dittatore che per anni ha truccato le elezioni, lascia il paese in mano ai militari. Quasi un'eredità quella che si prende con la forza il capitano Camara, che dice di voler portare il paese fuori dalla corruzione in cui versa. Ma lo disse anche Conte quando venne eletto nell'84. Quindi, sciolte camere e governo, bloccata l'attività sindacale, restano le jeep dei militari che scorrazzano per le strade e un popolo che non dice nulla. Sembra tutto ciclicamente uguale a se stesso, se non fosse che oggi potrebbe esserci di mezzo anche un inasprimento di tensioni etniche contro i Sussu, l'etnia del presidente morto e che già da tempo la base dell'esercito addita come etnia che si è arricchita alle spalle del popolo. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Alle 13:44 minuti cambiamo argomento, parliamo delle tradizioni del Natale e ci spostiamo in Toscana. È questo il suono che accompagnava un tempo l'attesa della mezzanotte di Natale. Cataste di legno venivano incendiate per riscaldare la vigilia di pastori e contadini, una tradizione che viene mantenuta oggi solo ad Abbadia San Salvatore, paesino medievale in provincia di Siena. L'assessore alla cultura, Patrizia Mantengoli. È una notte un po' magica. Il 24 dicembre per tutto il nostro paese vengono innalzate delle cataste di legno in modo ordinato, non in modo accumulato così e via. Queste fiaccole ce ne sono alcune tradizionali, perché hanno più di 1000 anni e quindi questa è una tradizione antichissima che abbiamo solo noi. È una tradizione che abbiamo cercato di mantenere fedele nel tempo. Per tutto il centro storico quindi si sviluppano in ogni rione queste cataste di legna. Gli zampognari girano anche loro per il paese e con le loro canzoni si uniscono ai cuori di noi abitanti di Abbadia e allietano questa nottata. Questa è la notte del grande evento, porta nel mondo pace e amore. Alleluia. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:46 minuti, le notizie di oggi. Sono buone quelle per chi ha un mutuo a tasso variabile. Scende ancora il tasso interbancario Euribor sulla scadenza, 3 mesi scivolato sotto la soglia del 3% per la prima volta dal 23 giugno 2006. Il tasso è sceso di 3 punti base al 2,99%. Il GIP del Tribunale di Pescara Luca De Ninis è al lavoro da questa mattina per decidere sulla scarcerazione dell'ex sindaco Luciano D'Alfonso agli arresti domiciliari dal 15 dicembre nell'ambito dell'inchiesta su presunte tangenti negli appalti pubblici al comune di Pescara. La notizia della scarcerazione è stata anticipata oggi dai quotidiani La Repubblica e Il Riformista. Per la prima volta nella sua storia la Sardegna andrà alle elezioni anticipate. Ieri sera il governatore Soru ha confermato le dimissioni motivate, tra l'altro, dal mancato via libera al piano paesaggistico. Ho presentato le dimissioni quasi un mese fa per i motivi che avevo ricordato, perché ritenevo che stessimo contraddicendo quanto di importante avevamo fatto sul governo del territorio. E nel momento in cui non possiamo fare al meglio o proseguire al meglio, ridiamo la parola ai sardi. Parola ai sardi che dovrebbe tornare il 15 e 16 febbraio. Sono in corso in Emilia-Romagna 9 verifiche sugli edifici, in particolare le chiese danneggiate nell'area tra Parma e Reggio Emilia, colpita ieri da una forte scossa di terremoto. Fino ad ora non sono stati segnalati feriti o crolli di edifici, ma la regione potrebbe formalizzare la richiesta dello stato d'emergenza. Voli quasi irregolari oggi all'aeroporto di Fiumicino, situazione verso la normalità anche per le valigie. Intanto, mentre continua il confronto con la CAI, i sindacati riferiscono di segnali positivi sulla verifica del rispetto dei criteri di assunzione per la nuova Alitalia. Il presidente del Senato Schifani è in Libano per portare gli auguri ai militari italiani inquadrati nel contingente UNIFIL. Il Comando Generale delle Forze Internazionali impegnate in Libano è dallo scorso anno affidato al nostro paese, al generale Claudio Graziano. In Afghanistan, se il governo lo chiede, il Parlamento è pronto a votare un aumento del contingente, ha detto Schifani. È una scelta squisitamente politica che dovrà adottare il governo consultandosi con le sedi internazionali, la sottoporrà al Parlamento. Non vi è dubbio che se il governo farà questa proposta e il Parlamento sarà chiamato a pronunziarsi dinanzi ad una esigenza conclamata di sempre più forte contrasto al terrorismo, ritengo che il Parlamento farà la propria parte. Rimaniamo in Medio Oriente. Dopo i 15 di ieri sera, 2 potenti razzi sono stati lanciati oggi dalla striscia di Gaza verso il sud di Israele, ferendo 2 persone. Gli attacchi arrivano alla fine di una tregua di 24 ore decretata dal movimento Hamas che controlla Gaza. E allarme per le proteste in Russia a causa della recessione che sta colpendo il paese. Abituata a un'economia che cresceva del 7% all'anno, ora deve fare i conti con un numero crescente di disoccupati. Il premier Vladimir Putin ha ammesso il problema e, rivolgendosi al mondo del business, ha consigliato di licenziare soltanto come estrema ratio. Nel corso della notte, con un comunicato alla Radio Nazionale della Guinea, il capitano Moussa Camara ha annunciato la formazione di un governo ad interim composto da 30 membri, di cui 29 militari e un civile. Ieri, dopo la morte del dittatore Conté, al potere dal 1984, un gruppo di militari aveva annunciato lo scioglimento del governo, di fatto un colpo di Stato. In tempi di crisi economica, ne parliamo tutti i giorni anche da questi microfoni, ci si può consolare con lo sport, con le notizie sportive, Carlo Genza? Forse. Ci puoi soccorrere su questo, però ti abbiamo chiamato anche per fare un po' un bilancio di quest'anno, no? Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Beh, ci si può consolare? Non lo so, perché anche lo sport, sapete bene come è messa la Formula 1 e quali sono state, qual è stato il fine anno della Formula 1, beh, anche lo sport ha i suoi problemini. Certo, chiudiamo un 2008 che è stato un anno importante per lo sport, l'anno delle Olimpiadi, l'anno degli europei di calcio. Come sapete, dalle Olimpiadi siamo tornati con un discreto carico di metallo pregiato, 28 medaglie, 8 d'oro, le altre equamente distribuite tra argento e bronzo. Sono state le Olimpiadi della crisi degli sport di squadra, non solo il calcio, ma il basket che nemmeno ci è andato, la pallavolo, la pallanuoto. Molto bene invece gli sport di combattimento, ci siamo riscoperti un popolo di combattenti, picchiatori dal pugilato al judo, eccetera. Quanto al calcio, l'anno per club è stato l'anno del Manchester United, che ha vinto Coppa dei Campioni, ha vinto ora di recente domenica il titolo di campione del mondo. Cristiano Ronaldo ha vinto il pallone d'oro, adesso ce lo troveremo di fronte in Champions League. Per il calcio invece, per il calcio azzurro non è andata bene, hanno, mettiamola così, di transizione questo degli europei, siamo usciti agli ottavi con la Spagna per quei calci di rigore, poi è tornato lì. Immagini ancora freschi. Sì, ricordi ancora freschi e non bellissimi. Formula 1, insomma, bello il mondiale di Formula 1, non sarà piaciuto molto agli sportivi italiani, però Hamilton su Massa all'ultimo metro, Valentino Rossi è tornato consolandoci. E nel ciclismo si è parlato molto spagnolo, Contador al Giro d'Italia, Sastre al Tour de France, ci siamo rifatti però con il Mondiale che è andato a Ballan. Senti Carlo, diceva prima Alessio che alcuni possono distrarsi, magari consolarsi con lo sport, ci sono però anche dei problemi quando si parla di sport. Quali sono le tue speranze per il 2009 sportivo? Ma innanzitutto premetto che c'è sport anche domani è un esperimento unico in Italia, c'è una partita di basket, del campionato di basket domani pomeriggio alle 6, quindi dopo il pranzo c'è a Bologna, idea di Sabatini, patron della Virtus, si gioca a pallacanestro, partita di campionato Virtus contro Ferrara. Superato un nuovo confine, sì, sempre delle idee geniali Sabatini. Sì, in America si gioca invece sempre domani la riedizione dell'ultima finale NBA, Lakers contro Boston Celtics, che è una partitissima, ma lì sono abituati per Natale. Quanto all'augurio, per il 2009 sarebbe bello essere un po' meno arbitrocentrici. Io dico, soprattutto nel calcio, e che non si vedano più episodi di follia pura come quelli di domenica a Terracina, dove un pazzo ha tirato fuori una pistola a una partita di ragazzini per un rigore concesso. Questa è follia pura che appartiene solo a noi italiani. Per il resto, guarda, un pensiero va al giro del centenario. Sapete il ciclismo, i problemi che ha e che ha avuto. Beh, sarebbe bello che si possa tornare ad avere protagonisti autentici e non più atleti sintetici. È chiaro che è una banalità, però sarebbe bello così. Infine c'è la finale di Champions League a Roma, l'augurio è che ci sia almeno un'italiana. Cosa dite? Io il mio augurio lo so, ma non lo dico da questi microfoni. Comunque grazie a Carlo Genta. A voi. E naturalmente restiamo a parlare di sport, perché è rientrato in Italia Alex Bellini, non so quanti lo conosceranno, il navigatore solitario che ha tentato la traversata dell'Oceano Pacifico su una barca a remi. L'impresa di Bellini era fallita lo scorso 13 dicembre. Dopo 294 giorni di navigazione a soli 120 km, pensate, dal traguardo di Sydney a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Le sue impressioni, allora sentiamole freschissime di ritorno da questa avventura al microfono di Paolo Scandale. Da tempo non vedevo l'ora di tornare con i piedi per terra, è stata una bellissima avventura, ma iniziava a mancarmi un pochettino la terra. L'Australia mi ha accolto benissimo, sono stati molto calorosi, la comunità italiana si è fatta veramente molto sentire, e non solo, perché ho avuto complimenti veramente in tutte le lingue del mondo. Cosa ti è mancato di più? Cosa hai potuto finalmente soddisfare ora che sei ritornata a casa? In assoluto il cibo, è la cosa che mi è mancata di più. Sono stati 10 giorni in cui veramente non mi sono fatto mancare niente. Aspetto questa sera per mangiare il miglior tiramisù che conosca. Certo, l'avventura poteva finire in tantissime altre maniere, però credo che alla fine questa sia stata la maniera che probabilmente mi ha insegnato anche di più, perché sai, è semplice essere felici, soddisfatti, contenti quando le cose vanno bene. Lo è un po' meno quando forse la vita ti presenta quelle situazioni inaspettate. Da un'avventura ad un'altra ci colleghiamo, diamo la parola a Peter Johansen, a capo della spedizione Oltre, un'avventura multimediale che potete seguire anche sul sito www.radio24.it. Oltre è a Capo Nord, luogo più a nord del continente europeo. Oltre ha già compiuto i primi 3.500 chilometri, passando per le meraviglie della Svezia, e gli ultimi 2.000 chilometri sono stati a una temperatura media di 15 gradi sotto zero, in alcuni posti tanta neve, strada molto zucciolosi, insomma ci siamo arrivati. La partenza dal Capo Nord è ormai non più un miraggio, ci siamo e partiamo, e Oltre andrà al di là. Oltre ha iniziato il suo lungo percorso, abbiamo passato il circolo polare artico con un'emozione grande. L'emozione che l'equipaggio ha avuto nel raggiungere Capo Nord è stato forte, che tutti ci siamo trovati con un nodo in gola e un po' di lacrime agli occhi. Ed è una sensazione bellissima, e questa sensazione la vogliamo trasmettere a chi ci sente a Radio 24. 13:56, mercoledì è il nostro spazio delle notizie di gossip. Poteva che chiudere l'anno con i fuochi artificiali, l'indiscussa regina planetaria del pop, nonostante i suoi 50 anni, e del gossip. Madonna, dopo il divorzio dell'anno, quello dal marito Guy Ritchie che le è costato parecchi milioni di dollari, e la chiacchieratissima liaison con il campione di baseball Alex Rodriguez, con chi si sussurra che abbia una nuova fiammante avventura proprio sotto Natale? Madonna, con chi ce l'ha? Con Jesus. Quasi si direbbe in fatto di nomi una predestinazione, no? Qui le battute si sprecherebbero, ma manteniamo ovviamente nell'opportuno binario del buon gusto, pur ricordando anche che sua figlia Madonna l'ha chiamata Lourdes. E vabbè, del resto questo fantomatico Jesus è solo, diciamo così, un giovane e prestante modello brasiliano incontrato durante un servizio fotografico per il mensile W o W, che dir si voglia, insomma. Madonna era molto interessata a lui, hanno dichiarato fonti al New York Post, anche se la portavoce della pop star, come suo mestiere, naturalmente smentisce. Talmente interessata, continua il giornale americano, da invitarlo a seguirla nella tournée e a San Paolo, e lui naturalmente ha accettato. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti, come si può dire, di una crisi di mezza età, no, per Madonna, ma diciamolo, era così anche a 16 anni e lo sarà, sappiatelo, anche a 97. Come si dice, chi nasce tondo. Un'altra che a 20 anni, meno di Madonna, ma promette benissimo, quanto a vita sentimentale turbolenta e a idee forse poco chiare, quantomeno fluttuanti, diciamo così, è l'attrice Kate Hudson. Da quando si è separata dal marito Chris Robinson, che è padre di suo figlio Reader di 4 anni, è piuttosto, diciamo così, inquieta. È passata dal rapporto tira e molla con il collega Owen Wilson alla relazione fulminea con il campione di ciclismo Lance Armstrong, ed è spesso balzata agli onori della cronaca rosa a causa di questo suo cuore zingaro. Ma che colpa ne ha se il cuore è uno zingaro e va, diceva una vecchia canzone, e va tanto da una parte all'altra che la stessa Kate ammette di non credere nella monogamia, perché dice reprime la mia energia sessuale. No, ribadisce, non credo che siamo fatti per essere monogami, siamo animali. Oddio, è vero, chi più chi meno. E poi non era sino a poco tempo fa una tesi sostenuta dagli uomini questa? Le donne evidentemente cominciano a convincersene a loro volta. Ma attenzione, colpo di scena, all'insegna della coerenza non è il mio forte, come non lo è di moltissimi. Del resto Kate Hudson chiosa così: la monogamia è difficile da praticare, detto questo, prosegue, non potrei mai stare sentite in un rapporto che non fosse esclusivo, perché non riuscirei a confrontarmi con una relazione del genere. Insomma, che vuole Kate? Contraria alla monogamia da una parte, ma anche alle ramificazioni che si dipartono dalla capoccia dall'altra? Com'è possibile? Sarà bene che decida cosa vuole fare da grande. E mentre lei decide, Roberta Giordano vi saluta e vi augura un sereno Natale. Sono le 13:59, prima di chiudere questa edizione del GR Extra Large, i titoli di oggi.